Per quanto riguarda le informazioni, io seguo le informazioni che vengono dall'Italia. Ho l'impressione che i notiziari italiani siano un po', non dico un po' esagerati, dicono tendono a calcare un po' le tinte, e invece i notiziari, dico, l'informazione giapponese è un po' contraria, cerca di fermare, di frenare un po'. Bisognerebbe aggiungere le cose e dividere per due, forse si potrebbe così avere una visione oggettiva della situazione. E il fatto che l'emergenza è di proporzioni apocalittiche, ecco, perché tutto il nord, la costa nord orientale del Longshu, quasi 500 km di costa, sono stati investiti da questo tsunami, che è lo tsunami che è stato terribile, più che il terremoto, perché i terremoti qui sono all'ordine del giorno, ce n'è stato uno anche 5 minuti fa, ecco. E la risposta è una risposta che soltanto il popolo giapponese può dare e sa dare, più di 100.000 soldati che stanno lavorando, adesso sono stati raggiunti quasi tutti i centri di accoglienza, sono più di 2.270, circa più di 250.000 persone che sono rifugiate. Adesso la risposta degli operatori giapponesi è molto positiva, stanno lavorando molto specialmente per quanto riguarda l'emergenza nucleare. L'ultimo messaggio che è arrivato dall'ambasciata proprio 2 o 3 ore fa dice quanto segue: nei reattori numero 1 e 2 l'acqua di mare viene pompata regolarmente e si spera di mantenere la situazione sotto controllo almeno per quanto riguarda questi 2 reattori. Un ulteriore elemento positivo è rappresentato dai lavori per il ripristino dell'energia elettrica, che potrebbe sostituire i generatori diesel che forniscono energia, eccetera. Insomma, sembra che la catastrofe nucleare sia evitata, lei dice.